Allora, riprendiamo il nostro incontro, con Alessandro Lanzetta, architetto fotografo, ricercatore in progettazione architettonica e urbana, autore di numerosi articoli e saggi, tra cui Modernità informale e Roma informale, la città mediterranea del Gra. Sì. Allora, prima di tutto ringrazio per questa, diciamo, presentazione un po' pirotecnica. In realtà, appunto, io non sono per niente una persona seria, lo dico subito. Seri semmai sono appunto i colleghi di urbanistica, di ingegneria che si basano su dei dati certi delle cose. Io sinceramente ma anche no. Io qui voglio semplicemente descrivere come mi appare, per me è una pratica sia di conoscenza, ma necessaria, diciamo quasi una maniera per esprimermi, quindi è proprio naturale, spontanea. Come appunto possiamo trovare nei vari dizionari, mappare vuole dire restituire graficamente o anche no, come abbiamo già visto, un aspetto, una conformazione, una situazione, un fenomeno. Per cui, diciamo, nel campo dello studio dei fatti urbani, che è una parte dei miei campi di ricerca, questa esigenza appunto di restituire i fenomeni sulle carte ha un'origine abbastanza antica, come è stato detto, ma diciamo, nella modernità ci sono alcuni capisaldi, come appunto Guy Debord con le mappe psicogeografiche di Parigi, che appunto non restituivano assolutamente Parigi, ma restituivano quello che lui percepiva. Per noi architetti sicuramente è essenziale quest'altra esperienza, la mappa della strip di Venturi, Scott Brown e Steve Izenour, che in realtà è parte di un libro che è tutta una gigantesca mappatura concettuale. E poi quest'altro personaggio, di cui appunto io ho un po' più ricercato, il quale appunto dimostrò che per capire il paesaggio contemporaneo e le sue potenzialità, bisognava utilizzare molti strumenti diversi, appunto la critica, la storiografia. Lui era un grande critico storico, ma soprattutto indagini sul campo basate su un coinvolgimento fisico-percettivo da restituire attraverso appunto mappature, critiche, grafiche, fotografiche e anche video. Lui, appunto, per capire Los Angeles, capì che doveva, non guidava e prese la patente, insomma, per dire. E fece questo tipo di cose. Poi è essenziale chiarire che in campo teorico mappare spesso si intreccia con un'altra pratica, che è quella del catalogare, e in questo senso è centrale appunto la figura di Abi Warburg con il suo atlante Memosyn, cioè un atlante della memoria del mondo, che è un susseguirsi di tavole in cui le immagini sono accostate senza evidenti nessi, in un montaggio volto a mappare le costanti della memoria occidentale. Quindi, per quanto mi riguarda, appunto, mappare vuol dire conoscere e restituire in maniera totalmente tendenziosa, come dire, indirizzata e molto parziale. Questo bisogna metterlo subito in campo, non c'è nulla di vero in un certo senso. Che cosa restituiamo? Alcuni fenomeni come qui, appunto, che era una mappa fatta per una ricerca sul Mediterraneo iniziata, eccetera, eccetera, in cui uno isola soltanto alcuni aspetti che gli interessano. In questo caso mi interessava la città di Roma e il Mediterraneo, e appunto. Quindi, appunto, uno studio dei fatti urbani può, come in questa mappatura catalogatoria che ho fatto in questo libro, ricercare le tracce della tradizione mediterranea nei tessuti urbani della contemporaneità, delle metropoli contemporanee, oppure può mappare l'opera di alcuni architetti che in qualche modo hanno avuto legami diretti o indiretti con il contesto mediterraneo, oppure, scendendo un po' più nel dettaglio, le tappe del viaggio giovanile di Le Corbusier, per ricercare alcune origini nascoste mediterranee delle sue architetture, oppure i luoghi diciamo, di origine delle architetture messe in mostra da questo, in questa famosissima mostra Architettura senza architetti, Architecture Without Architect di Bernard Rudowski, per capire alcune questioni che ci stanno dietro. Però, appunto, l'operazione di mappatura di un fenomeno può anche essere l'avvio di una ricerca molto più ampia, per quanto mi riguarda quasi infinita, perché sta continuando da una ventina d'anni. Molti anni fa, questo era il 2005, all'interno di questa rivista che si chiamava Gomorra, molti anni prima del libro di Saviano, iniziamo a domandarci che cosa stava accadendo appunto nel territorio del periurbano di Roma e più o meno sul grande raccordo anulare. Io ero, come dire, accademicamente molto giovane, non troppo giovane, ma accademicamente molto giovane, invece di un articolo decisi subito, no, vabbè, faccio una mappa, che è questa qua. È una mappa astratta, come vedete, non ha una forma, no? Che segue appunto la forma del grande raccordo anulare. Non voleva restituire assolutamente la realtà, ma solo alcuni fenomeni che mi interessavano. Infatti, appunto, in quel periodo questa infrastruttura stava diventando lo scheletro e la forma di quella che successivamente ho chiamato la metropoli mediterranea del grande raccordo anulare, cioè che è un caotico mosaico di parti urbane giustapposte, senza connessioni fra di loro, se non questa, regolata esclusivamente dalla legge del mercato. Non ci sono spazi, diciamo, pubblici reali, ma soltanto, diciamo, centri commerciali, cose di questo tipo. E tra l'altro, l'unica reale possibilità di spostamento è l'automobile, no? E quindi, diciamo, questa è l'inizio di una ricerca che poi, appunto, in un numero successivo sempre di questa stessa ricerca io ampliai con un saggio, ma soprattutto con quest'altra mappa che allargava il discorso alla scala regionale, in cui appunto descrivevo a che dimensione stava diventando questa città, questa metropoli ormai, e utilizzavo appunto alcune cose di quel personaggio che vi ho citato prima, che è Rainer Banham, che lui definiva queste alcune questioni, le chiamava ecologie, no? L'ecologia dell'utopia, l'ecologia dei surfisti, l'ecologia. E io appunto qui ho cercato di mappare alcune ecologie che sono appunto di tutte queste tribù urbane che in realtà usano creativamente l'infrastruttura del grande raccordo anulare, ci studiano, ci lavorano, ci si curano, perché ormai ci stanno i nuovi poli della sanità, e poi fanno tutto questo senza avere un reale rapporto col centro storico di Roma, non neanche il centro storico, proprio con il centro. E quindi, diciamo, utilizzano creativamente tutta questa questo territorio, appunto, io dico, in realtà addirittura magari pranzano sui colli e poi vanno a fare l'aperitivo al mare, poi vanno al campo nudisti e poi vanno, non lo so, dove gli pare, cioè c'è di tutto. Sto andando avanti, si è impallato? Forse, ah, ecco, scusate, ho sbagliato. Non va indietro? Non va indietro. Vabbè, ah, aspetta, una andata indietro. Vabbè, quello che volevo dire è che in realtà la mappatura non può essere, non è soltanto una questione grafica, cioè tutte queste mappe in realtà sono sempre state accompagnate da un lavoro appunto di mappatura, di catalogazione fotografica del territorio, che in realtà restituisce più plasticamente la realtà, appunto, che è quella di questa nuova forma urbana, insomma, di questa metropoli mediterranea del Gra, appunto. E da queste, diciamo, cose è nato tutta una serie di ragionamenti che sono finiti prima in un articolo su questo libro che sta là, ho visto, e poi appunto successivamente in questo libro che si chiama Roma Informale, fatto da Manifesto Libri, che in qualche maniera appunto partiva proprio da questa mappa, questa mappa del grande raccordo, e affrontava appunto il tema della perdita del centro più altre questioni. Appunto quella forma urbis a cui noi siamo tutti quanti molto affezionati, in realtà è persa ed è sostituita da questa nuova metropoli, di cui l'unica forma che si riconosce è questa appunto del grande raccordo anulare, che appunto in qualche maniera cercai pure di rimettere, diciamo, in forma con quest'altra, in cui quello che vedete in rosso praticamente è la pianta del Nolli, e il resto in realtà io qui misi selezionai alcune cose, tra cui i quartieri informali e queste cose così. Quindi, pure di nuovo, una mappatura, diciamo, fotografica, che appunto in realtà cercava di restituire la realtà fisica dei luoghi, ma anche, diciamo, la vita degli abitanti. Questa ricerca si è molto intrecciata a quest'altra, fatta appunto con alcuni degli organizzatori di questa iniziativa, Antonella in particolare, che aveva, diciamo, di nuovo una mappatura che cercava, una mappa proprio in questo caso, che cercava di nuovo una mappa psicogeografica in fondo, che cercava di restituire appunto quello che succedeva nel territorio della, diciamo, della Via Casilina. Questa esperienza è andata in mostra, è andata, diciamo, una prima cosa a una biennale di architettura, mi pareva del 2012, che in qualche maniera aveva una mappatura fotografica fatta fare direttamente agli abitanti. E questa era una situazione molto interessante, era che cosa conta per voi del vostro quartiere. Gli abbiamo dato una macchinetta fotografica di soggetto e questo è stato quello che ci è stato restituito, insomma. E di nuovo poi questo è diventato una mostra, SMUR, Self-Made Urbanism Roma, a una galleria berlinese, l'MGBK, e dove appunto, oltre a varie mappe, la cura, eccetera, eccetera, presentammo anche questo lavoro di mappatura del quartiere di Valle Borghesiana, dove facemmo questa mappatura, catalogazione, di cui vi farò vedere un po' meglio. Questa poi andò appunto al Maxi col titolo di Percorsi informali, in una mostra un po' più ridotta in realtà. E la mappa fu aggiornata con appunto tutte quante le derive che aveva fatto il gruppo di ricerca per rendersi un po' conto della situazione, di che cosa era appunto la mappatura come strumento di conoscenza. E dopodiché, diciamo, questa invece mappatura catalogo del quartiere di Valle Borghesiana fu ulteriormente raffinata. Avevamo, diciamo, cinque sezioni tematiche che erano organizzate in dei pieghevoli che non so se ci sono qui, ma che erano appunto attaccati a questo grosso pannello e che appunto descrivevano alcuni fenomeni. E qui le vedete come cinque fasce di immagini e testo. Un primo fenomeno in pratica mostrava che i cittadini si autocostruivano le case in maniera bulimica. Appunto, è capitato insieme a Antonella delle esperienze divertentissime, no? Che stavamo lì, no? E non capivamo, questo ci diceva che non viveva da solo e però continuava a costruirsi sta casa, no? Diceva, ma perché? E infatti, insomma, quello che abbiamo capito è che in realtà le case erano l'esatta fotografia di loro stessi, punto e basta, non erano nient'altro, non c'era nessun motivo per farle, tutte abusive, tra l'altro. Poi il secondo era appunto, abbiamo capito che quando i cittadini si insediavano, la prima cosa che facevano era costruire dei veri e propri portali, a volte erano pure belli potenti, che preludevano la casa futura, dico, intanto faccio il portale. Poi, diciamo, c'era questa, qui descrivevamo l'immaginario onirico, no? monumentale e rappresentativo contenuto in molte di queste case, nonostante o forse a causa della banalità proprio della casa in sé, che in realtà è quella casetta lì, no? Basica. Poi nella quarta raccontavamo un divertente fenomeno che era quello appunto che in realtà anche in un quartiere del genere, diciamo, si formava quest'unione di casa e bottega con queste sovrapposizioni, un concetto su cui tra l'altro sto lavorando adesso in un altro tipo di ricerca. E poi infine questa qua era abbastanza interessante, in cui i giardini, tutte le case c'erano dei grandi giardini murati, in realtà in questi ci inseppavano tutti gli elementi dello spazio pubblico che lì non esiste in nessuna maniera, no? E questa appunto era un altro tipo di mappatura. Dopodiché un'altra esperienza è questa, che in realtà è abbastanza imparentata, un po' più, diciamo, strutturata scientificamente. È una mostra che è sfociata in questo volume, Cura Città, si chiama La Sapienza della Cura Urbana. Come potete vedere, la mappa è essenziale, sta in copertina e così via. E appunto, in realtà, è una ricerca che mappa restituisce alcuni fenomeni della metropoli con alcune possibilità di trasformazione. Ma la cosa più interessante è che, facendo un convegno, sono venuti dal Maxi, che in qualche maniera ho già conosciuto per quell'altra mostra, e ci hanno invitato a partecipare a questa mostra, La strada dove si crea il mondo, dove abbiamo prodotto questa installazione che si chiama Strada Mondo, Via Flaminia, Via Flaminia, una linea da immaginare in realtà, che era di nuovo basata su una mappa, in questo caso dell'asse cioè una mappa psicogeografica dell'asse della Via Flaminia dal centro, quindi pure dalla parte antica, la Via Lata e così via, fino, diciamo, oltre il grande raccordo anulare, che come vedete è corredata da una nuvola di parole che descrivono in qualche maniera alcune caratteristiche dei luoghi che in qualche maniera si intrecciano. Di nuovo, questa mappatura aveva bisogno anche di un supporto, di un catalogo visivo di supporto. Questo erano 5 video in cui giravano appunto questi 5 video, giocavano tutti quanti con dei termini rubati a Foucault, che erano eterotopia, utopia e distopia e così via. Il primo era questa foto in animazione, spero sia partita, che l'ho fatta io, ed erano appunto, descriveva in realtà lo spazio, diciamo, della città. Adesso non ve la faccio vedere tutta perché è bella lunga, però appunto lo spazio della città, con appunto queste parole che ogni tanto venivano fuori e ci descrivevano uno spazio, in questo caso lo spazio eterotopico di Piazzale Flaminio, che è un luogo, insomma, che sembra quasi la definizione proprio che dà Foucault del termine. E poi ci stavano, vado avanti perché sennò finisce all'infinito, e poi ci stava questi 4 video girati da 2 ragazzi che stanno qui, che sono bravissimi. Lucia Concetta e Carmine Vincelli, che in qualche maniera descrivevano la vita appunto anche con i suoni, i rumori di questo asse. Per concludere, insomma, quindi per me la mappatura è proprio un metodo di lavoro molto più, poco scientifico se volete, molto più, diciamo, un'espressione, una maniera di esprimersi anche da un punto di vista banalmente. Io sono un architetto, quindi insomma, a differenza dei colleghi urbanisti che lavorano sui numeri, io proprio non ne voglio sapere, però appunto si può applicare a qualsiasi ricerca, come questa qui, che era una bellissima ricerca esposta all'Archivio di Stato sui quartieri di edilizia popolare, o anche questa un po' più seria, che era un atlante dell'architettura contemporanea che sta online, tra l'altro, molto bello secondo me, fatto insieme al MIBAC, che in realtà alla fine tutto sommato non è nient'altro che una sorta di memosina warburgeriana dell'architettura moderno-contemporanea mediterranea. Insomma, io con questo concludo e vi ringrazio dell'attenzione. Spero di aver Grazie Alessandro. aiutato. Sì, ha un po' sforato, ma ci voleva probabilmente perché la mole dei messaggi era imponente. E dunque, siamo arrivati a un orario, a una lady hour, diciamo sono le 18:52. Cerchiamo di magari fare una connessione tra quello che ci ha raccontato Alessandro e di spaziare magari. Ancora oltre, alla mia sinistra è seduto un signore che ha una bellissima t-shirt di Donkey Kong, che secondo me è una mappa sicuramente della mia adolescenza, perché questi erano i videogame, se la puoi far vedere, che io giocavo nelle sale giochi di purtroppo Bruxelles e La Spezia a quei tempi. E Donkey Kong è la mappa del tentativo di liberare una signora che è tenuta prigioniera da uno scimmione, no? Che non è, infatti, io ho sempre pensato che stesse molto meglio con lo scimmione, un po' come Fay Wray nel primo King Kong del 35. Infatti, Donkey Kong e King Kong un po' si somigliano come storie, però c'è Mario, che poi diventerà il vero protagonista di tutta la saga, che invece non c'è in King Kong, che è questo immigrato italiano che praticamente diventa la grande star dei videogame. Allora, Cobol Pongide, che io conoscevo più come artista che come autore di saggi immaginifici sulle mappe più stravaganti, possiamo dirlo, ma in realtà con i piedi ben piantati, ha scritto delle cose abbastanza fulminanti, no? Per esempio, l'ultimo saggio, adesso me l'ero segnato il titolo, io non li ho letti, confesso, però li leggerò. Sono fulminanti solo dai titoli. Sì, diciamo che è fulminante l'idea di approfondirli, è evidente. Per esempio, mi diceva Giorgio che c'è questo libro che hai scritto, che si chiama Atlante tattico ad uso del ciclista Vabbè, se sei sensibile. sempre un fuciclista. Ecco, ma spiegami che cosa c'è dentro questo Atlante. Vabbè, allora io ci arrivo dicendo un po' di cose. Allora, intanto mi piaceva molto questa descrizione delle mappe sensoriali che venivano citate prima, e mi piaceva molto questa immagine del mare che veniva citata come immagine naturale e come propulsore di mappe naturali. In realtà, se noi facessimo sentire l'odore o comunque il rumore del mare ad uno dei protagonisti di una serie molto istruttiva di fantascienza che si chiama Alien Nation, ma anche al film, che sono degli anni 70. Ecco, lui non sarebbe molto felice di sentire il mare, perché quelli sono degli alieni, in realtà si tratta degli alieni che arrivano come immigrati sul nostro pianeta e che si sciolgono dentro l'acqua del mare. Tra l'altro bevono del latte, bevono solo latte acido, insomma hanno una serie di problemi, però sicuramente avrebbero un impatto ambientale col mare molto diverso, e quindi lì la mappa andrebbe sicuramente rivista e rimodulata. Adesso ci arrivo all'ufociclismo. Ma in realtà io ho sentito molte cose su cui sono d'accordo, e mi piaceva, tra l'altro, proprio partendo dagli alieni che si sciolgono nell'acqua, e tracciare un piccolo parallelismo tra quella che è la storia delle mappe, anzi l'evoluzione della precisione con cui noi mappiamo, e il declino della fantascienza in generale. C'è un rapporto molto forte tra le due cose, e il rapporto molto forte, tra l'altro, a un certo punto si innesca nel 62 in uno scritto polemico di Ballard, che ci dice: smettetela di pensare alla fantascienza come l'esplorazione degli spazi, non ha proprio più nessun senso. Cercate di guardarvi internamente, cercate di guardare al proprio interno, al vostro interno, perché lì scoprirete mondi fantascientifici, più interessanti. Un aspetto molto interessante, intanto perché in realtà nel frattempo si stava sviluppando, si era già sviluppata anche appunto quella che è già stata citata tante volte, la psicogeografia, ovvero il tentativo poi di darsi una mappatura interna sulle emozioni, cosa molto pericolosa da un certo punto di vista. Perché l'abbiamo visto, tutti gli interventi l'hanno detto, è vero, le mappe poi sono degli oggetti arbitrari, però in realtà vanno a descrivere, vanno a creare una realtà, tanto più se noi a un certo punto cominciamo a esplorarci internamente, forniamo delle mappe al capitale, anche delle mappe di quelle che è la nostra interiorità rispetto all'ambiente. Quindi da questo punto di vista la psicogeografia è una cosa pericolosissima, perché appunto fornisce delle armi efficacissime alla sussunzione reale al capitale. Lì si innesca questo cortocircuito sugli spazi, fondamentalmente. E declino della fantascienza, perché in realtà man mano che impariamo a mappare, o man mano che pensiamo di imparare a mappare, viene sempre meno l'esigenza di esplorare i posti, quindi esplorare i luoghi ed esplorare quelli che sono i territori. Ora il punto è: ma i territori esistono davvero? Cioè, prima veniva detta la mappa, veniva detto che la mappa non rappresenta il territorio. Secondo me è una dichiarazione cauta, nel senso che in realtà esiste il territorio. Senza la mappa esiste il territorio? Io credo fondamentalmente di no. D'altro canto, le prime mappe che venivano pure prima veniva citato, no? È stato fatto secondo me un po' di cortocircuito. Le prime mappe non sono delle mappe realizzate su dei supporti, le prime mappe sono le mappe realizzate sul territorio. E quindi le linee magiche, gli omphalos, ovvero è il territorio la mappa stessa, non c'è distinzione, sostanzialmente si tratta, come direbbe un monista, si tratta della stessa identica sostanza a livelli di organizzazione diversa. La mappa è un livello di organizzazione assolutamente più infima rispetto a quello che noi chiamiamo la realtà, ma si tratta semplicemente esattamente dello stesso tipo di sostanza. E quindi su cosa finiamo? Finiamo sulla rappresentazione non più arbitraria della mappa, ma la rappresentazione arbitraria del territorio. Il territorio non esiste, fondamentalmente non esiste un territorio se non esiste una mappa che in qualche modo lo nomina, lo circoscrive e lo descrive. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo con quello che è stato detto. Si tratta sicuramente dei costrutti di potere, biopolitici, quello che volete, costrutti, perché poi in realtà la cosa fondamentale è che noi siamo quegli individui, probabilmente quegli esseri sul pianeta Terra che sono più adatti di altri ad andare a vivere all'interno delle mappe. Siamo mappofili, nel senso che viviamo all'interno di libri, anche questo è stato detto, all'interno di racconti, ma soprattutto viviamo all'interno di quelle che sono le strutture di base della costruzione del reale, che sono le mappe. Quindi siamo dei mappofili, fondamentalmente, cioè ci orientiamo solo ed esclusivamente attraverso le mappe, e da questo punto di vista la mappa diventa praticamente qualsiasi cosa e diventa sempre più ingombrante. In fondo quello che tutti abbiamo detto e che è stato ripetuto più volte è proprio il pericolo. In fondo, forse non è stato citato come pericolo, ma il pericolo dell'ipertrofia delle mappe. Anche nelle condizioni più radicali e anche nelle condizioni di critica sociale più aspra e in qualche modo necessaria. Io penso a subito dopo, ad esempio, alla pandemia. Subito dopo la pandemia non è stato creato un progetto di mappatura generale che invece doveva essere creato, per esempio, da parte dei movimenti. Non si può pensare che dopo la pandemia il territorio sia quello che avevamo creato, che avevamo immaginato esistere prima della pandemia. È totalmente sballato questo, proprio perché il rapporto è un rapporto biopolitico con le persone. E proprio perché le mappe, in fondo, appunto, prima forse tu dicevi le mappe servono per conoscere, io direi che le mappe servono solo esclusivamente per creare, sono degli architesti, e quindi no, il primo architetto della storia, se vogliamo, è la Torah, per come interpretato, come esplicitamente interpretato, no? C'hai la costruzione del tabernacolo, che in realtà molti interpretano proprio come il manuale della costruzione del mondo. E beh, quello è proprio l'architetto di rappresentazione definitiva totale di quella che sono esattamente le mappe. Cioè le mappe sono le cose che costruiscono fondamentalmente la realtà, non aiutano a conoscerla, o meglio, aiutano a conoscerla nella modalità che ci ha insegnato Thomas Kuhn: creiamo i nostri paradigmi, poi ci andiamo a abitare stare dentro e quindi sì, certo, li conosciamo in quanto in realtà sono il prodotto cognitivo del nostro rapporto o comunque della mediazione che esiste tra i modi di produzione e quelle che sono poi le strutture cognitive che all'interno di questi modi di produzione si creano. O Kuhn, tra l'altro, ci spiega pure una cosa molto interessante, ci dice: guardate, attenzione, che se noi viviamo dentro i paradigmi, ce lo dice anche Richard Rorty, il teorico cosmogonico della poesia, cioè fondamentalmente si tratta di costrutti che noi, di cui noi siamo in grado di sbarazzarci molto molto facilmente, li prendiamo, li buttiamo via, perché sono costrutti biopolitici fondamentalmente, quando i modi di produzione, quando le contraddizioni che si sedimentano alla base dei modi di produzione non riescono più a rispondere a quelli che sono i principi funzionalistici di un sistema, i paradigmi vengono presi, vengono gettati e noi ci trasferiamo all'interno di nuovi paradigmi e all'interno quindi di nuove mappe. A cosa voglio giungere dicendo questo? Voglio aggiungere che, come diciamo in generale possiamo definirci dei mappofili, io credo che debbano esistere, comunque esistono sicuramente dei mappotrofi, cioè ovvero dei personaggi o comunque degli esseri che necessariamente vivono dentro le mappe, perché nessuno è fuori dall'immanenza, però in realtà che possono, che sono in grado di guardare le mappe in una prendendo un certo tipo di distanza, cioè riconoscendo che le mappe sono quello che sono, ovvero sono la realtà, sono il costrutto reale all'interno del quale noi ci muoviamo, ma che la loro funzione con un principio di mappatura di una sostanza reale non esiste, e quindi fondamentalmente è impossibile creare distorsioni attraverso le mappe. L'unica distorsione che noi possiamo creare, credo, questo lo diceva Fioreschi, il matematico russo, che in realtà sta tornando un po' di moda, così come è tornato di moda Bogdanov, lui diceva: l'unica distorsione che noi possiamo intraprendere con la realtà proviene proprio dalle mappe, perché le mappe ci danno una percezione della realtà come continuo. Le realtà continue non esistono, non esistono fenomeni reali continui fondamentalmente. Una mappa che ci rappresenta un territorio in maniera continua è quella la distorsione fondamentalmente. Solo i fenomeni discreti esistono in quanto noi li possiamo studiare, in quanto noi li possiamo interpretare. La continuità è un costrutto mentale teorico, fondamentalmente non esiste. Il tempo stesso è un costrutto, è una continuità, ma è un costrutto umano fondamentalmente. Allora, all'interno di questa distinzione tra mappotrofi, fondamentalmente io credo che sostanzialmente le mappe servono solo alla costruzione di progetti egemonici. Cioè la mappa non possa essere non possa assolutamente mai rappresentare uno strumento di conoscenza, ma debba rappresentare uno strumento per, tra virgolette, imporre culturalmente quella che è la propria visione del mondo, no? Fondamentalmente. E quindi le mappe come costrutti politici, basta, cioè non hanno nessun tipo di altra forza ed evenienza. Quindi la costruzione di mappe che non hanno nessun tipo di rapporto con il reale, dato che il reale poi in realtà è fondamentalmente la costruzione della mappa. Da questo punto di vista io mi occupo della costruzione di mappe che insegue qualche cosa che con il reale ha meno a che fare possibile, ovvero, lo dice la parola stessa, l'ufociclismo si occupa di creare mappe sulla base della ricerca dell'oggetto volante non identificato, non dell'alieno, assolutamente, ma dell'oggetto assolutamente non sussumibile dal capitale, cioè quell'oggetto che in nessun modo il modo di produzione è in grado di sussumere come valore, trasformarlo in valore, se non trasformandolo in qualcos'altro. Ho iniziato aprendo sugli alieni, ecco, gli alieni sono in realtà la trasposizione economica, se vogliamo, dell'oggetto volante non identificato, dell'UFO. Io posso rendere produttivo l'UFO solo nel momento in cui lo trasformo in un alieno, in qualcosa di molto umano, lo posso mettere dentro delle pellicole, ci posso creare dei gadget e quindi li posso vendere sul mercato delle merci. L'oggetto volante non identificato è effettivamente l'unico oggetto reale esistente che tutti vedono, ma che è in qualche modo assolutamente non sussumibile. Tra l'altro ultimamente è stata anche proposta la possibilità di cambiare il nome. UFO non esiste più come nome, adesso il Pentagono si occupa di UAP, che ha lasciato tutta la parte relativa al folklore e anche alla capacità appunto non sussumibile dell'oggetto volante non identificato alla parola UFO, che in qualche modo si è liberata anche di tutta quella quelle sovrastrutture legate ai Men in Red, ai Men in Black, a tutta quella apparato di potere che gira, di quel bestiario di apparato che gira intorno all'oggetto volante non identificato, gli ha dato un nome scientifico, tra virgolette, o comunque un nome da lui più controllabile, che è quello di UAP. Quindi mappare il territorio a partire proprio dalla inefficacia della mappatura del territorio, cioè costruire mappe che sono prima di tutto conflittuali proprio con l'essere che si pone il progetto conoscitivo all'interno della mappa, quindi creare delle mappe totalmente disfunzionali. Ovviamente mappe totalmente disfunzionali, un po' veniva detto pure prima, no, io posso pure creare una musica totalmente disfunzionale senza nessuna regola, no, ci sono delle regole, ovviamente devono esistere fondamentalmente delle regole. La prima è sicuramente quella di fuoriuscire dagli apparati di psicocontrollo della psicogeografia, fondamentalmente, perché la psicogeografia ha fatto più danni che noi. Io parto dalla psicogeografia, però riconoscendo che la psicogeografia ha fatto un sacco di danni proprio perché ha fornito la materia grezza appunto per dare l'automappatura dell'individuo e metterla, come dire, renderla pubblica per il potere e per direttamente funzionale alla sussunzione. Quindi se non è più il territorio a dover essere mappato, è il territorio in base alla ricerca fondamentale, alla ricerca di quelli che sono gli oggetti non sussumibili al capitale, quelli devono essere, come dire, e il territorio, essendo un costrutto assolutamente arbitrario, deve piegarsi, deve morfologicamente riadattarsi a quello che sono questa tipologia di oggetti. Ora io non entrerò rispondere alla domanda, non entrerò nello specifico della cassetta degli attrezzi dell'ufociclismo, chiuderò però dicendo che sicuramente uno degli oggetti più interessanti che ci consentono di fare questo tipo di ricerca è la bicicletta. Perché? Infatti ufociclismo. Perché la bicicletta è, magari oggi un po' di meno, ma è stato per molto tempo un oggetto volante non identificato all'interno delle città. L'ufociclismo nasce addirittura molti anni fa, nel 96, copiando quello che era il cosiddetto culto del cargo, che per chi di voi sa che cos'è il culto del cargo. Quindi questa assunzione da parte della bicicletta della figura dell'oggetto volante non identificato, proprio, cioè lo sfrecciare all'interno della città e rendersi assolutamente irriconoscibili cercando di emulare quello che è l'oggetto conoscitivo, cioè conoscere solo esclusivamente cercando di emulare. Poi abbiamo sviluppato una serie di strumenti che nel frattempo si sono un po' più assottigliati e che lavorano tutto su quello che dicevo prima, cioè lavorano proprio sul tentativo di rendere discontinuo un panorama cittadino che in realtà nella stragrande maggioranza dei casi appare come un panorama assolutamente continuo e ininterrotto, proprio perché crediamo che la discontinuità sia la semplice, l'unica forma che noi abbiamo di diversificare atmosfere, di diversificare esperienze all'interno dei contesti urbani. Chiudo dicendo che, attenzione quindi, anche prima è stato detto, creazione di mappe, io c'era un esempio che volevo portare, Iconoclasistas, per chi di voi non l'ha mai visto, sono un collettivo sudamericano che fa esattamente questo, vengono chiamati quando un villaggio ha un certo tipo di problemi, loro arrivano, la cosa che fanno è mettono in piedi una mappa e tra l'altro hanno messo il loro manuale online, insomma sono molto efficaci da questo punto di vista, e riscrivono il territorio tutto in base a quello che è il problema da analizzare. Però attenzione, perché, ripeto, più noi facciamo utilizzo di mappe, cioè ovvero più noi riempiamo di senso, del nostro senso, il territorio, più il territorio, ammesso che possa esistere, tende a scomparire, tende a vanificarsi. E scomparendo il territorio si scompare anche quella possibilità di pratica di reset surreale. Grazie a Coppola Pongile, grazie anche perché sicuramente non ci accuseranno di essere stati autoreferenziali, che è un rischio che si corre sempre in queste occasioni. Io a questo punto credo che sia giunto il momento anche un po' di parlare di automappature, che sono state citate più volte sia da Alessandro, poi successivamente anche da Cobol, perché una delle cose più affascinanti che ha fatto il Museo delle Periferie nel periodo in cui non si poteva fare niente è stato appunto, insieme per esempio all'Associazione Perifera, che credo sia rappresentata, eccolo là. Okay. E qui, però lo voglio chiedere a Giorgio un po' qual è stato lo scopo di questo progetto. Molto banalmente, noi il Museo delle Periferie si occupa, è metà centro studi e metà museo d'arte. Diciamo, nella parte centro studi ci interessava capire cosa c'era di interessante nella periferia di Roma, però a me piaceva l'idea, ma questa è una cosa che porto avanti da un certo numero di anni, cioè che non fossimo noi a mappare decidendo, ma che ci fosse anche la volontà di essere mappati, cioè che ci fosse questo auto davanti, che vuol dire accetto l'invito, ma accetto anche l'idea di entrare dentro, no, appunto una mappatura che il Museo delle Periferie fa, dicendo cosa la periferia genera, e non tutti devono o hanno il piacere di entrare in una mappatura altrui. Quindi noi lo abbiamo invitato naturalmente tutti, ma poi anche uno per uno, diciamo, a venire e raccontarci il loro spazio, la loro pratica, la loro realtà. Questa cosa insomma ha prodotto tantissimi incontri, per ora tantissimi file audio come quello che stiamo raccogliendo qui, perché non siamo stati ancora bravi, capaci di, perché anche quello doveva essere nelle intenzioni affidato a ciascuno, diciamo a ciascun protagonista, ma un po' per pigrizia, un po' perché ognuno poi c'ha altre cose da fare, queste automappature tradotte in scrittura non sono mai arrivate, e noi ci siamo trovati di fronte al problema di come uniformare diciamo queste narrazioni, che noi abbiamo voluto proprio che fossero, cioè, diciamo, faccio un esempio banale: quando Metropolis viene e si racconta, io avrei definito Metropolis occupazione abitativa se avesse dovuto fare una mappa dall'esterno. Metropolis dice casa, ecco, allora se nella scheda uno deve dire casa è un'autonarrazione, se dici occupazione abitativa è una narrazione, no? Sì, diciamo, quindi noi abbiamo optato per l'auto, chiedendo di rispondere sostanzialmente a 5 domande elementari: chi, cosa, come, quando, perché, cioè come ti chiami, dove stai, che fai, per essere più neutri, lasciare naturalmente a ciascuno la possibilità di raccontarsi. Questi racconti sono stati fatti anche a più voci, insomma, in maniera, come dire, abbastanza a volte anche divertente e caotica, però hanno prodotto diciamo uno strumento importante. L'altra questione, perché io poi tendo, essendo un signore di una certa età, a tradurre sbagliando. È vero che usiamo i siti, le piattaforme, eccetera, in tempo quasi reale, ma poi spero sempre di tradurre tutto in volumi pesantissimi, e il tempo di fare il libro, e già molti di quegli spazi hanno cambiato nome, non esistono più, ne sono nati altri 10, quindi no, diciamo, è un lavoro sempre interessante, però diciamo a volte non si riesce a stare diciamo nel tempo presente, ecco, già è vecchio il libro che esce, quando uscirà, ha senso lo stesso secondo me, però diciamo, ecco, quindi questo lavoro non è completato, mancano tante cose, però diciamo adesso, insomma, speriamo di ripartire prossimo autunno, e poi anche di tradurlo in qualche cosa di un pochino più strutturato, senza forzare, diciamo, senza togliere, appunto, senza mettere in bocca le parole diciamo a nessuno. Tensione enciclopedista, poi quella a creare i lemmi così in questo modo, cioè che finalità, perché in realtà no, c'era l'enciclopedia borghese illuminista, e prima citavo Bogdanov per esempio, che è un altro che ha tentato di creare, poi non ci sono riusciti, ma ha tentato di creare però l'enciclopedia del proletariato. Voi quale volete, diciamo, di quale classe sociale volete crearla? La domanda è intelligente, ma noi non abbiamo ambizioni, diciamo, cioè né enciclopediche, né soprattutto vogliamo che l'enciclopedia sia chiusa, diciamo, noi vogliamo creare delle connessioni, cioè il macroasilo è nato, come tu sai, con l'autocandidatura, cioè noi abbiamo aperto la porta del museo, che di solito è un luogo con la porta chiusa, dicendo tutti coloro che sono artisti, fanno gli artisti, hanno qualcosa da dire, diciamo di intelligente, insomma, diciamo tutti quelli che fanno questa cosa con successo o meno, però in sanità di mente, diciamo, scusate se la dico brutalmente, però diciamo non Napoleone, quelli che fanno, diciamo, sono invitati ad autocandidarsi, che vuol dire dire io ci sono, dire io ci sono e io voglio contribuire alla creazione di uno spazio comune come voleva essere il Magrasilo, cioè uno spazio, no, che, e questi incontri, questa automappatura, chi partecipa all'automappatura del Museo delle Periferie in qualche modo è interessato anche a entrare in connessione con gli altri, già lo fa probabilmente il museo, noi non è che inventiamo le cose, diciamo le cose già esistono, però a volte si può contribuire a creare questi spazi che sono per me spazi politici, ecco, non so se ti ho risposto. Cioè, siamo tutti iscritti dentro quel percorso, poi ci smarchiamo secondo il proprio grado di emancipazione, ok? No? Quindi non incasiniamoci troppo. Abbiamo bisogno di nominare il mondo, cioè, se no non se ne esce. Siamo dentro anche un processo formativo continuo. Noi dobbiamo diventare molto più in gamba. Noi siamo dentro una fase di transizione antropologica, epocale, di una gravità inaudita. Stiamo affrontando il futuro verso cui non abbiamo le chiavi. No, non è che avere le chiavi del futuro sia possibile, però la cosa che percepisco nell'ambito universitario, dove mi trovo a transitare, c'è un'inadeguatezza abissale, abissale. Ok? Allora, abbiamo bisogno di nominare il mondo, di trovare delle forme, le parole sono quello che sono limite, sono la gabbia, associarla già ai luoghi, già inizia a essere interessante. Tieni conto che questa cosa del riconoscere i luoghi nominandoli, io mi interrogo molto su quanto sarebbe importante reinventare le toponomastiche, con tutti sti nomi di gente che ha fatto le guerre, eroi di qua, eroi di là, no, pochissime donne, associarlo proprio ai territori. Quando io trovo una via, un vicoletto, associato via del Pozzo, oppure via, che ne so, no? Che ti fa intuire di cosa accadeva in quel posto, io mi entusiasmo quasi. Ah, finalmente c'è un luogo che porta il nome di ciò che è stato, di ciò che era, di ciò che poteva e di ciò che potrebbe accadere. Anzi, quanto sarebbe bello ripescare quei pozzi, rigestire... rifar riaffiorare le vie idriche intubate che ci sono nelle città e mille altre cose di questo tipo. Allora, un altro elemento che volevo mettere in campo, che può essere utile, ma vado veloce e poi passo anche perché prima non ne ho parlato, delle mappe parlanti. Questo di inventare i format, me lo trovo quasi necessario, per me quasi fisiologicamente determinante. Sono nato con l'avanguardia, anticipando l'innovazione, e questi 40 anni, vi assicuro, di roba mi hanno fatta proprio tanta e continuerò a farla. Questa dei walkabout è una cosa, in fondo, nella sua semplicità, che sono delle passeggiate, ma sono conversazioni radiofoniche. Quando andiamo in streaming web e radio, lasciamo il segno, no? Utilizziamo tutto il registrato delle conversazioni sul campo che diventano podcast, meglio ancora, dei geopodcast. E questo fatto del cliccare sulla mappa e senti le persone che stanno transitando in quei luoghi, conversandone, e dico un'altra cosa e mi sospendo, perché è interessante questa cosa, di associare delle parole chiave ai luoghi. L'abbiamo fatto utilizzando i 17 goal dell'Agenda 2030, che è un po' come i 10 comandamenti, ragazzi. Di quei 17 gol, anche se li hanno scritti e concepiti non bene, utilizziamoli. A quel punto si sostengono, si finanziano le realtà, amministrazioni locali che rispettano quei 17 gol, se no niente PNR e se ne vadano al diavolo. Dico questo perché è importante. In molte scuole gli insegnanti più avvertiti, intelligenti, ci stanno lavorando con i bambini sui 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. È una cosa molto reale, e qui concludo, associare quei 17 gol a 17 luoghi della città. Sono i progetti che io sto curando, e l'ho appena concluso, la terza edizione, e secondo me è un modo interessante per leggere il territorio come un sottotesto, tipo povertà, educazione, acqua pubblica, l'ho portato al Parco degli Acquedotti, parlando di Don Sardelli, eccetera, eccetera, eccetera, e tante altre cose di questo tipo. Vai. Era evidente. Grazie. Stavo notando una cosa ascoltandovi, che secondo me tutti sappiamo, ma forse è bene anche mettere agli atti, che sia sulle mappe, sia nella lingua, sia diciamo in tutto ciò che usiamo come intercapedine fra noi e la realtà in cui viviamo, c'è sempre una lettura ufficiale e poi qualcosa che rimane fuori come una sorta di lato B, di lettura ufficiosa della realtà, delle mappe, della lingua, no? C'è una norma anche dal punto di vista delle mappe, dei luoghi dove ci muoviamo, e poi c'è sempre qualcosa che è fuori. E questo mi faceva venire in mente le zone temporaneamente autonome di Hakim Bey, non so quanti di voi, no? Che parlava di sacche in cui è come se il tempo, le regole... È morto recentissimo, forse un mese fa, però sì. Eh sì, infatti, ma io mi ricordo quel libro quanto mi colpì, perché... Comunque, al di là del personaggio stesso, era interessante che lui diceva si creano delle sacche, appunto, fisiche, cioè anche locali, ma anche mentali, in cui le regole standard è come se non funzionassero, da zone temporaneamente autonome, ma interessante quel temporaneamente, perché nel momento in cui noi la definiamo una TAZ, poi iniziamo a normalizzarla, no? E allora credo che anche nel dialogo con te, Cobol, una cosa che veniva fuori era, secondo me, non tanto l'illuminismo, quanto l'idea che nel momento in cui noi definiamo delle cose che naturalmente sono sempre state fuori dalla definibilità o dalla normalità, le gentrifichiamo, cioè il rischio è della gentrificazione, della normalizzazione di quello che era fuori dalla normalità, no? E questo succede con le subculture, quando diventano mainstream, e anche con i luoghi che in realtà nascono per stare fuori dalla norma. Mi vengono in mente i centri sociali, le case occupate, i parchi abbandonati, tutte quelle zone che la normalità rifiuta in quanto non sono comprensibili con un occhio normale. E ci sono due cose che io vedo mancare nelle città, e secondo me i vostri progetti c'entrano moltissimo. Allora, uno sono i luoghi dove le persone si incrociano casualmente, facendo flânerie, diciamo così, che è una roba che molte periferie condividono. Questo, io vivo in una periferia a Firenze, e mi veniva in mente quel discorso, no, dell'espansione oltre il Gra. La flânerie è il gironzolare. No? Cioè godersi lo spazio senza avere un goal, no? Senza avere devo andare da A a B, ma in realtà gironzolo nello spazio senza... Ma infatti, ma è una cosa spaziale e temporale. Sì. Sì. Beh, per esempio, alla portata di tutti, no? Cioè, è una cosa, non vuol dire andare alle Hawaii, vuol dire vivere in maniera diversa, in maniera non lottizzata, non normalizzata lo spazio e anche il tempo. Ed è una cosa che abbiamo smesso di fare, infatti l'altro passaggio era quello. Esattamente, sì. Noi viviamo in una società, viviamo in una città che fondamentalmente è segnata da pratiche di design ostile, quindi noi siamo esclusi dallo spazio pubblico, nel senso siamo immessi nello spazio pubblico in quanto non abbiamo spazi privati, ma se abbiamo gli spazi privati veniamo sempre più abitacolati, cioè veniamo sempre più rinchiusi all'interno di quello che è il supporto vitale, quindi non è che io non scelgo di girare al centro, è che in generale vengo spinto a circolare, vengo spinto a fluidificare, perché qualsiasi attività che non è prevista e non è più mediata conto terzi, perché non è più redditizia, cioè non sta all'interno del supporto, vitale, è sconsigliata o in qualche modo repressa, fondamentalmente. E chiudo solo dicendo, poi dico subito la parola, perdonatemi, dicevo, io non metto in discussione assolutamente l'importanza di pratiche e di costruzioni concettuali come quella che stiamo tentando. Quello che un po' Giorgio Rocha, insomma, quello che un po' provocativamente volevo dire è che quando ci si pone il problema di trasformare qualche cosa, secondo me bisogna porselo con l'obiettivo di sapere dove, in che modo e in che direzione si trasformano le cose. Allora, quando parlo di inciclopedia e dico l'enciclopedia del proletariato, l'enciclopedia della borghesia, utilizzando sicuramente dei termini desueti, sto dicendo praticamente questo: verso quale tipo di trasformazione cosciente, egemonica ci vogliamo, se ci si stiamo muovendo, oppure è semplicemente un circolo borghese, intellettuale, di creazione di neoismo e basta, punto e basta? Secondo me la grande domanda rimane nel momento in cui tu mappi le zone smappate, nel momento in cui tu nomini le zone snominate o le cose snominate, rientrano nella normalità o riescono a vivere con un piedino nella TAZ? Secondo me è una tensione interessante anche fra i vostri diversi punti di vista, perché noi siamo una società normalizzante e tassonomizzante. Allora, quando si tassonomizza quello che stava beatamente fuori dalla tassonomia, no? Si può mantenere una tensione creativa o diventa parte del circuito performativo, appunto? Esatto, tu sei dei termini complessi, io sono solo una linguista. No, guarda, qualsiasi tipo di attività.